E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Si occupa di filosofia e, siccome è intelligente, diventa materialista. Soltanto un cambiamento strutturale avrebbe potuto far cambiare il cielo. Ragiona per giorni e giorni, non si può dire che non sia tenace. Preda una crisi di nervi, soffre terribilmente di insonnia e per addormentarsi conta le pecore. Eh sì, c'è chi conta le pecore per addormentarsi e chi invece per mantenersi in forma conta i passi. Fatelo anche voi. Prendete un semplice contapassi, lo trovate nei negozi di articoli sportivi, negli ipermercati, costa più o meno 10 euro, fissatelo alla cintura e dimenticatevelo. Alla fine della giornata andate a vedere quanti passi avete fatto. Questo è il primo passo, è proprio il caso di dirlo. Da qui possiamo partire per fissare il nostro obiettivo: camminare di più, aumentare il numero di passi. Non ne servono tanti, ne bastano 400-500 passi al giorno in più rispetto a quelli che abbiamo contato nel giorno di prova. Obiettivo: arrivare almeno a quota 5.000. Comunque io so cosa voglio, questo. Che cos'è? Un contapassi, te lo metti alla cintura e cammini. Ok, ma quando te lo regalo fingiti sorpresa. No, questo è per te. Cosa? Il dottore non ha detto che devi fare esercizio fisico. Il regalo che voglio è che tu cammini un po' di più. Cheryl, io sono una persona molto attiva. Sono in pianissima forma. Oh, tesoro mio, la tua forma è quella di una palla. Non resta allora che camminare di più, e in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori. 5.000 passi al giorno, che corrispondono ad una distanza di circa 3 chilometri da percorrere quotidianamente, però non occorre farli tutti di fila. Iniziamo dalle buone notizie, dottore. No, 5.000 passi sono una breve passeggiata, ma si può fare anche 4-5 volte, si può scendere, salire le scale, andare a comprare il pane, portare il cane fuori. L'importante è che si prenda il concetto fondamentale. I 5.000 passi stanno per movimento, stanno per muovere il corpo, muovere le gambe. Perché? Perché il movimento riattiva una serie di cose complesse del nostro corpo, il metabolismo, un buon invecchiamento, una buona tonicità muscolare, che sono la vera, il vero trucco per vivere a lungo e vivere sani. C'è un progetto molto interessante di cui abbiamo già parlato insieme, dottor Cricelli, ma che voglio ripresentare ai nostri ascoltatori: Le Città per Camminare, un'iniziativa che nasce proprio per promuovere la cultura del movimento fisico alla portata di tutte, unendola anche all'interesse storico, artistico, paesaggistico. Viviamo, certo. Noi viviamo in un paese in cui l'arte è proprio a disposizione di tutti. Beh, vedi, quando noi chiediamo ad alcune persone la ragione per cui non camminano volentieri, si impigriscono, ci dicono che è noioso girare in dei posti privi di interesse. E quindi dobbiamo cercare di stimolare l'interesse al cammino, al movimento, abbinandolo a delle cose interessanti. È noto che nelle nostre città fare 3 chilometri, cioè 5.000 passi, corrisponde a fare una breve girata nei centri storici delle città, visitare un museo. I musei sono lunghi a volte, si fanno tanti passi, oppure andare anche a fare shopping. E abbiamo cominciato dimostrando, per esempio, che girare in breve il centro di Firenze corrisponde a percorrere quei 5.000 passi necessari per la salute. Camminare... E l'abbiamo poi esteso, lo stiamo estendendo alle altre città. E sono in tutte, dottore? Quante città? Ma una trentina. È di avere piano piano tutte le città italiane, ma tutti, diciamo, piccoli e medi centri, che sono quelli più interessanti, dove vive la maggior parte delle persone. Quindi piano piano, via via che le città aderiscono a questa iniziativa, noi vorremmo arrivare entro quest'anno a 30, 40, alla fine dell'anno anche a 50 città coinvolte. Con un beneficio in più, dottor Cricelli, non solo per la nostra salute, ma muoversi, lasciando quindi la macchina in garage, comporta anche un risparmio di circa 700 euro all'anno. L'avete quantificato, vero dottore? Sì, lo abbiamo stimato, ma è chiaro che se noi rinunciamo ad usare i mezzi pubblici, ma soprattutto l'automobile, no, a favore del movimento, ma anche la bicicletta è movimento, anche la bicicletta sono passi che si fanno, sì. E noi risparmiamo benzina, risparmiamo inquinamento, risparmiamo code inutili, perché come sapete in alcune città con i 5.000 passi si va anche più veloci dell'automobile, perché si passa avanti all'automobile. Eh certo. Le automobili sono in fila e noi invece sul marciapiede. Passo dopo passo le superiamo. Dottor Cricelli, certo. Grazie per essere stato con noi. Grazie ancora a voi. La saluto, buonissima giornata. Ma i benefici non si fermano qui, 5.000 passi, questi sono almeno il numero necessario per stare bene, naturalmente possiamo aumentare il numero dei passi, soprattutto se magari vogliamo perdere qualche chiletto, dobbiamo puntare più in alto tra gli 8.000 e i 10.000 passi, ma camminare non solo, e questo sarebbe già di per sé molto importante, ci fa guadagnare in salute, fa risparmiare, quindi è un vantaggio anche per il nostro portafoglio, ci fa dimagrire, ci sfila un po', ma camminare aiuta anche la mente. In linea con noi abbiamo in linea in studio invece ho il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica. Buongiorno professore. Camminare aiuta a portare la mente altrove, spesso a portarla nel luogo giusto. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, già tempo fa abbiamo detto come il movimento, la deambulazione, il movimento del camminare aiuti moltissimo quelle che sono le attivazioni di frequenze cerebrali importanti come le onde alfa. L'oscillazione anche verticale che abbiamo ad ogni passo funge un pochino da movimento da culla, e questo porta queste onde cerebrali alfa in particolare, quindi non quelle beta nelle quali siamo adesso immersi per esempio per una razionale, vivace, vitale attività di comunicazione, ma quelle invece che rappresentano il momento, potremmo dire quasi meditativo, sì, che non esclude il contatto con la realtà circostante, ma che invece va ad agire molto molto molto profondamente su quelle che sono delle situazioni endocrine particolari di alcune ghiandole come l'ipotalamo, l'ipofisi e quant'altro, che possono essere importantissime per delle risposte anche talvolta delle nostre problematiche. E certo. È quello che succede spesso camminando abbiamo a volte delle risposte che non pensavamo di poter acquisire, come quando per esempio succede la stessa cosa quando ci svegliamo al mattino. È lo stesso stato cerebrale di onde alfa che stiamo vivendo. C'era un monaco, come dicevo anche qualche tempo fa, vietnamita, questo monaco Thich Nhat Hanh, che ha codificato questa meditazione dinamica, per cui non è una meditazione statica, ma si fa proprio camminando. C'è questo Plan Village vicino in Francia, dove le persone vanno per camminare e meditare. E muovendo i piedi accendiamo la mente, possiamo avere anche delle intuizioni. Stefano Bollani, che è stato nostro ospite la settimana scorsa con Irene Grandi, ci ha raccontato proprio così. Non amo l'ozio fine a se stesso, amo l'ozio creativo, ma ne pratico poco comunque, perché comunque sono uno che è sempre in movimento e le idee nuove mi vengono mentre sono in movimento, è difficile che mi vengano da fermo, diciamo, su un piede, cioè sull'attenti, ecco. Quindi cammina, nascono anche le idee, ma qua in studio abbiamo il piacere di avere il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo, primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Però per camminare bisogna avere buoni piedi, dottore. Assolutamente. Tra l'altro le statistiche ci dicono che l'80% delle persone, in maggioranza donne, soffre di problemi ai piedi, a volte è un piccolo calletto, altre volte il dolore si irradia nella pianta, si localizza tra un dito e l'altro. Chi non ha mai sofferto? Ecco. Ben pochi purtroppo, pochi. Ben pochi. Il piede è veramente uno strumento straordinariamente importante che noi abbiamo a disposizione, perché non è solamente una parte del corpo che ci permette di camminare, quindi di avere la spinta propulsiva, di ammortizzare i carichi, ma ci permette anche veramente di correlarci con quello che ci sta intorno, perché sì, è un organo di senso, ne abbiamo già parlato di questo, certo. È una struttura che ci permette di ricevere un sacco di informazioni sul nostro equilibrio, sulla nostra postura, sul modo migliore per camminare, e lo dobbiamo tenere da conto naturalmente. E tenere da conto il piede vuol dire curarsi del piede, vuol dire guardarselo, vuol dire coccolarselo. Cosa che facciamo raramente. Cosa vero? Che facciamo raramente, lo trascuriamo un po'. Ce ne accorgiamo solamente quando comincia a dare segni, a lamentarsi. E questi segni sono molteplici. Ci sono patologie modeste, semplici da risolvere, come problemi da sovraccarico tendinei, dolore sotto le dita dei piedi, dolore a livello del calcagno, è molto frequente, problema della fascite plantare. Ci sono problemi un po' più complessi legati alla biomeccanica o alla struttura del piede. Il piede cavo, il piede piatto rispondono entrambi a situazioni, rispondono in modo diverso a situazioni diverse. E quindi, e intanto che camminiamo, spesso dopo un cammino avvertiamo, non necessariamente un vero cammino, dopo che siamo andati a fare compere, spese, adesso certo, è tempo di shopping, di saldi, avvertiamo magari un dolorino ai piedi, in entrambi i piedi o in uno in particolare, uno solo, certo, su un punto preciso, come lei faceva riferimento, dottore, o al calcagno, nella parte anteriore del piede, tra le dita. Queste ci danno delle indicazioni, perché i nostri piedi soffrono e si lamentano. Certo, ci danno delle indicazioni precise. Noi sappiamo che quando abbiamo un certo tipo di dolore sotto all'attaccatura delle dita, a livello dei metatarsi, un dolore che si manifesta spesso in modo urente, come fosse una stilettata, una scossa elettrica, potrebbe essere il famoso neuroma di Morton, che è quella pallina nervosa che dà veramente molto che fastidio, fa vedere le stelle, perché picchia in testa il dolore, perché al picchia piede. In testa, è un dolore, sì, è un dolore nevralgico che picchia in testa. Professor Tirelli, il piede è stato definito, si legge, un capolavoro di ingegneria, ma è anche una mappa straordinaria. Ad esempio, osservando la linea mediana del nostro piede, secondo la riflessologia plantare, si può notare una relazione con la nostra colonna vertebrale. Sì, la cosa è affascinante, molto bella, perché se partiamo dall'alluce, dalle falangi dell'alluce, noi abbiamo la mappa della nostra testa, del nostro capo. Per cui nell'articolazione metatarso-falangea, quindi nella parte di questo osso lungo che si articola con la prima falange, abbiamo il passaggio del tratto cervicale. Tutto il primo metatarso è invece uno specchio riflesso proprio della colonna dorsale, quindi del tratto della colonna dorsale, e poi sul calcagno, il cosiddetto tallone, abbiamo la parte lombo-sacrale. E spesso la cosa interessante che una giusta, professionale, accurata manipolazione, sì, di queste zone va ad alleggerire, ad attenuare quelle che sono delle contratture che di riflesso appunto noi abbiamo sulla nostra colonna vertebrale stessa. Quindi massaggia il piede, scioglie le tensioni lungo la schiena. È una tecnica complementare, sì, ovviamente certo, non è la sola, perché ci vogliono mani esperte anche mediche, mani esperte fisioterapisti, quant'altro, scienze motorie, però l'aspetto anche complementare, la bellezza di queste tecniche che si associano in modo molto, molto armonioso. Un'altra curiosità, io direi, cercando di trasferire quelle che sono le conoscenze della medicina cinese con le nostre conoscenze di medicina occidentale, ci sono due punti molto interessanti. Uno è proprio al centro dell'articolazione, la parte anteriore sulla tibia, che si chiama punto 41 dello stomaco, e proprio nel centro dell'articolazione della caviglia. Ed è un punto che viene attivato dai medici agopuntori, o piuttosto che con delle digitopressioni, con lo scopo di sbloccare le digestioni lente, ma non solo le digestioni alimentari, anche le digestioni mentali. Quando abbiamo troppe preoccupazioni, troppi pensieri nella testa, camminare attiva proprio l'articolazione della, appunto, tibiotarsica, quindi della caviglia, proprio in quel punto. Ma un altro punto, che poi chiudo, interessantissimo, è un punto che si chiama 36, Zusan Li, che è il punto della longevità dei 100 anni. E questo ce lo deve, sì, insegnare, dottor Melegatti, adesso ce lo dice. Dov'è questo punto? Già 3000 anni fa, negli antichi testi, si diceva che tonificando con la moxa, quindi con una tecnica particolare di calore, questo punto si campava, sì? 100 anni. Oggi 100 anni sono abbastanza... Si arriva quasi okay, facilmente. Però per dire che in relazione potremmo arrivare magari a 150 anni, è scherzo ovviamente. Però è un punto che è all'origine del tibiale anteriore come muscolo. È proprio vicino al ginocchio ed è, toccandosi il ginocchio, lo troviamo nella parte esterna, vicino diciamo al quarto quinto dito, e questo punto all'origine del muscolo tibiale anteriore, se tonificato ogni giorno, dà una forza molto molto importante in termini di resistenza. Io personalmente lo utilizzo molto con i miei atleti e devo dire realmente che l'effetto funziona sulla resistenza alla fatica, funziona e come. Dottor Melegatti, abbiamo invitato i nostri ascoltatori a fare oggi la prova dei passi per capire se, quanto siamo sedentari, quanto invece siamo bravi, già attivi. È essenziale per camminare avere dei piedi che funzionano bene, che non abbiano dei disturbi. Ma i piedi non sono tutti uguali. Certo. Di solito noi abbiamo con i nostri piedi, siamo molto severi. Ci sono persone che proprio detestano anche vedersi i piedi e mostrare i piedi. Ma chiudo la parentesi, perché questo potrebbe essere lo spunto per una prossima trasmissione, non voglio bruciarmela. Piedi piatti, piedi cavi, sono piedi comunque usati per camminare, ma la differenza della tipologia del piede può in qualche modo rendere più faticoso il cammino? Sì, decisamente sì. Il piede cavo è considerato il piede veloce per antonomasia, il piede dello sportivo, quello che permette una grande reattività, una grande velocità, però è un piede che comunque può andare incontro a problemi da sovraccarico, magari in misura maggiore rispetto al piede piatto, perché il piede cavo dobbiamo veramente immaginarci l'arco plantare molto ben disegnato con la fascia plantare che chiude come la corda dell'arco chiude l'arco, sì. Così anche la fascia plantare, e questa fascia plantare in un piede particolarmente arcuato può venire sollecitata molto spesso, ma anche in situazioni banali. Se poi aggiungiamo anche qualche altro problema legato magari a una scarsa flessibilità della muscolatura della gamba e quindi poco stretching, allora possiamo andare incontro davvero a problemi fastidiosi. Abbiamo Maria che ci chiama da Alessandria, 800 24 00 24. L'invito a chiamare, a raccontarci quanti passi fate al giorno, se i vostri piedi si lamentano in modo particolare, dove, se pensate anche di individuare il motivo. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter, oggi una versione del cammino che, come ha anticipato il professor Tirelli, non riguarderà solo la locomozione, lo spostamento, il mantenersi in forma, ma anche cammino inteso un po' come una filosofia di vita, portare la mente altrove e il cammino anche come proprio percorso di conoscenza. Maria, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, siete veramente grandi. Ma grazie Maria, lei è una camminatrice? Sì, sono una camminatrice perché io ho la grandissima fortuna di avere un cane. Anch'io, è fantastico avere un personal trainer straordinario. Verissimo, oltre a darvi tutto l'amore possibile e immaginabile, sì. Ecco, mi costringe anche ad uscire e parecchie volte al giorno per parecchio tempo ho apprezzato appunto la possibilità di poter andare in campagna, di poter andare nei boschi o anche in città, insomma cammino veramente moltissimo grazie al mio cane. Quindi è un consiglio che vorrei dare veramente a tutti. Adesso non dico di tenere sempre un cane perché potrebbe essere impegnativo per vari motivi, non tutti. Ma c'è anche il cane del vicino. C'è anche il cane del vicino e soprattutto cosa ci sono? Ci sono i canili, per cui tantissime persone possono andare al canile, far uscire un cane dalla gabbia, prenderlo, portarlo a fare una bella passeggiata e riportarlo lì. Non comporta nessuna spesa, non comporta nessun... Aspetta, hanno suonato alla porta. Eccolo, hanno suonato alla porta. Saluto e vi abbraccio con grazie, tutto il cuore. Grazie Maria, saluti anche il suo amico a quattro zampe, è vero, perché si cammina. Assolutamente, è veramente un grande consiglio quello che ha dato. Allora, noi continuiamo a camminare, ad occuparci del nostro piede e vorrei parlare soprattutto delle dita che ci raccontano qualcosa. Ad esempio, se dentro di noi sonnecchia un campione. Velocisti si nasce, non si diventa. Solo chi ha dita dei piedi lunghe e la corretta distanza tra tendine d'Achille e caviglia può raggiungere la massima velocità. È quanto emerge dallo studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology dai ricercatori della Pennsylvania State University, negli Stati Uniti. La ricerca è stata condotta su 12 velocisti e 12 ragazzi non sportivi della stessa altezza, dei quali è stata analizzata la struttura muscolare di piede e caviglia e misurata la distanza tra tallone e punta delle dita. Al termine dell'esperimento è emerso che rispetto agli altri, gli atleti avevano dita dei piedi più lunghe e una distanza tra tendine d'Achille e caviglia inferiore del 25%. Dita più lunghe consentono ai velocisti di mantenere il massimo contatto con il suolo per più tempo. Inoltre, se la distanza tra tendine d'Achille e caviglia è più corta e le dita dei piedi sono più lunghe, si ottiene l'accelerazione massima. Tratto da Salute 24, il nostro portale amico, cugino, e quindi non resta che dare un occhio alle certo. dita dei piedi e alla lunghezza del piede, ma dottor Melegatti, io con lei vorrei parlare del tendine d'Achille, certo. tanto forte quanto fragile, tra tutti i tendini del nostro corpo è quello più frequentemente interessato da patologie infiammatorie e degenerative, dovute soprattutto al sovraccarico, all'utilizzo sì. eccessivo, e i runner lo sanno bene. È uno dei punti deboli di chi corre, di chi corre lunghe distanze, ma non solo, e di chi soffre di questa patologia, perché non solo è una patologia a carico dei corridori a lunghe distanze, anche di calciatori, di rugbisti, di persone insomma che utilizzano la corsa nella propria attività sportiva. Quindi se correte, ma in ogni caso se avete il tendine d'Achille, ce l'abbiamo tutti fortunatamente perché... potete, magari ci sono dei punti magici sul tendine d'Achille, non vi voglio svelare oltre, e siamo ritornati qui cammino e passo dopo passo per continuare a stare bene, per tornare in forma, ma attenzione agli eccessi, a stressare troppo il nostro piede, in modo particolare il tendine d'Achille, che è un tendine così robusto e al tempo stesso così fragile, è un po' il tallone d'Achille dei runner, certo. ma non solo dei runner, dottor Melegatti. Sì, si può manifestare a seguito di un sovraccarico, può essere la tendinopatia d'Achilleo può essere predisposta da una situazione, da una conformazione del piede, dalla retrazione della muscolatura della gamba, da un allenamento sbagliato, eccessivo, quindi ci sono dei fattori che possono generare questo problema, che può essere a livello inserzionale, quindi molto basso, cioè mm-hmm. dove il tendine si attacca all'osso, molto in basso al piede, o può essere a metà del tendine d'Achille, ed è caratteristica la forma a fuso, è una sorta di rigonfiamento che possiamo vedere a metà del tendine d'Achille, molto dolente alla palpazione, e quello è un segnale d'allarme, bisogna fermarsi, bisogna curarlo. Ghiaccio? Ghiaccio va bene, anche se non è una vera e propria patologia infiammatoria, quindi il ghiaccio in questo caso non risolve il problema. Non le piace molto. No, mi piace, però non è un aiuto importante come in altre situazioni. È molto meglio ripristinare la normale lunghezza del tendine e utilizzare presidi antinfiammatori e andare a capire perché si è manifestato questo problema tendine. Professor Tirelli. Sì, in questi casi innanzitutto l'aspetto posturale è interessante, no? da comprendere, perché io ricordo per esempio uno degli atleti che ho seguito per tanto tempo, che era David Beckham, lui aveva un arto molto molto più corto dell'altro e questo alla lunga nella carriera ha determinato una, per così dire, usura eccessiva di un tendine rispetto all'altro, perché era in continuo costante sovraccarico, tant'è che poi alla fine purtroppo ebbe proprio la rottura del tendine. Che fa un suono preciso, vero? Sì, è un rumore molto forte che viene avvertito anche a distanza. È uno schiocco. Anche perché la parte di inserzione tendinea rappresenta l'ultimo degli anelli di questa catena cinetica muscolare posteriore, per cui la tensione a cui è sottoposto il tendine è elevatissima. Questo schiocco proprio indica... Quanta tensione, per cui in questi casi, per quanto riguarda poi un tentativo anche di cura attraverso degli esercizi che possiamo suggerire ai nostri radioascoltatori, è il fatto magari di usare un elastico, guardando anche la televisione, per dire, appoggiare la nostra gamba su un'altra poltrona e porre questo elastico tra la parte metatarsofalangea, quindi appena al di sotto delle dita del piede, sì, e tirare. Ok, lo stretching, come diceva il dottor Melegatti prima, è una delle forme per di cure, di prevenzione anche, per cercare di attenuare quelle che sono delle situazioni di accorciamento di tutta la muscolatura posteriore in questo caso. La stessa cosa la si può fare appoggiandosi a un muro con gli avambracci in appoggio, sì, e portando una gamba estesa posteriormente, l'altra flessa, ma tenendo entrambi i piedi sempre col completo contatto al suolo, quindi, sì, in modo che il tendine venga sempre allungato bene. Che lavori in allungamento. Abbiamo detto che il tendine d'Achille è un problema per i runner, ma non solo, sì, quindi, perché sentendo uno direbbe, allora se la corsa procura tutti questi rischi, allora conviene camminare. C'è un caso in cui conviene camminare piuttosto che correre? Quando si vuole dimagrire. Sembra, certo, vero che è così. Sembra che per dimagrire bisogna soffrire, in invece realtà basta così camminare. Certo, dottore, perché molti pensano che per dimagrire ci si debba massacrare di corsa o di esercizi strenui. In realtà invece una camminata a una velocità moderata, parliamo di 5-6 km all'ora, è molto più efficace nella stessa quantità di tempo rispetto a una corsa, ed è molto molto meno stressante per le nostre articolazioni. E di questo, e c'è una ragione, vero dottore, sì, che spiega questa differenza? Perché si dimagrisce di più camminando che correndo? Ma perché possiamo metterla come il quizzettone di oggi, che sì, così diamo una spiegazione. C'è una spiegazione in più, si dice, ma questo dovete confermarmelo voi che siete medici, che l'esercizio fisico praticato a digiuno aiuti a risvegliare il metabolismo, sì, dottore, vero? Sì, effettivamente è così. Un esercizio fatto a digiuno al mattino è più efficace per perdere peso rispetto a un esercizio invece fatto dopo colazione o dopo pranzo. Allora, perché correre? Anzi, ve la formulo in modo più semplice: perché camminando si perde peso più facilmente rispetto a quando invece si corre. 800 24 00 24, intanto che voi ci pensate, io vado a salutare Silvana che ci chiama da Milano, e poi abbiamo Giorgio da Monza e Brianza. Silvana, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Chiamo per un problema che mi è stato diagnosticato recentemente a un piede, cioè il morbo di Morton, sì, un tipo di morbo di cui non avevo mai sentito parlare, che ha un nome anche un po' inquietante. Sì. E questo Morton non le piace? No, comunque appunto i medici probabilmente lo sapranno meglio di me, sì, mi dà un dolore molto forte, molto acuto, intenso, quasi un bruciore a livello delle tre dita, terzo, quarto, quinto dito, sì, del piede. E poi però ultimamente mi succede anche di avere un prurito, una sensazione di prurito, come se ci fosse un nervo sotto la pianta del piede che tira. Ecco, sempre colpa di questo maledetto Morton. Questo ma Morton, il dottor dal nome sinistro. Dal nome sinistro, che ne fa di tutti i colori, sì, dottore. Che è una patologia non così frequente, però quando si manifesta, effettivamente si manifesta nei modi che ci ha raccontato la signora. È una pallina di tessuto nervoso che, quando è compressa o dall'appoggio plantare o dalla scarpa troppo stretta, insomma, quando è sollecitata crea dolore. Questo tipo di dolore è un dolore veramente che sembra una scossa elettrica. È un problema questo che si può risolvere togliendo l'appoggio con una soletta plantare personalizzata che possa scaricare la zona interessata, che di solito è il terzo spazio metatarsale, sì, quindi, la quindi parte tra terzo e quarto dito, sì, e si deve provare attraverso trattamento conservativo e solette. Se dovesse veramente non avere il soggetto alcun beneficio, si può pensare a toglierlo chirurgicamente. Giorgio ci chiama da Monza, buongiorno Giorgio. Buongiorno signora, senta, io sarò molto breve. Volevo dal dottore, non mi ricordo il nome, sì, avere la conferma dell'appoggio corretto del piede durante la corsa podistica a lungo periodo, quindi lungo tempo. Qual è l'appoggio appunto del piede più consone per evitare problemi articolari, eccetera. Ricevuto, Giorgio. Allora, come si appoggia al piede? Ma non esiste un appoggio ideale. Ciascuno ha il proprio appoggio. È chiaro che se è un appoggio troppo pronato, troppo supinato, va corretto con una soletta plantare, con la scelta giusta delle scarpe. Però si può capire attraverso un'analisi, naturalmente, un'analisi. Se il proprio piede, se il piede, certo, appoggia bene, e certo, quindi analisi aiuta del cammino. Un'analisi del, certo, cammino si può fare in quali centri? Si può fare in diversi centri da degli specialisti, degli specialisti di medicina dello sport o di podologia. Si sale su una pedana e si muovono i piedi. Questa pedana si può anche camminare, quindi è una prova, un test statico e dinamico, e questa pedana registra le pressioni e riesce a mappare la situazione delle pressioni sotto la pianta del piede. Mi state chiedendo di rinnovarvi la domanda: perché il cammino fa perdere più peso della corsa? 800 24 00 24. Stefania da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Io volevo sottoporre il mio problema. Da qualche anno ho solo sul piede destro, quando cammino, con le calzature, e il quarto dito, quindi l'anulare, ha come una scatta, cioè come posso spiegare, una scossa elettrica. Sì. A piede nudo non succede. So che ce l'ha anche mia sorella e anche mia nonna, che ormai non c'è più. Non so se è una cosa. Se lei ereditaria, dice, ecco, Stefania. Non lo so, fatalità ce l'abbiamo tutte e tre. Molto sensibile in quel punto del piede, ma non riusciamo. Potrebbe essere il neuroma. È sempre lui. Potrebbe essere, perché no? Bisogna indagare questo, indagare con un'ecografia e, se non basta, una risonanza magnetica o comunque con una visita specialistica. Una cosa che volevo aggiungere prima rispetto alla valutazione, suggerire magari ai radioascoltatori una cosa interessante ma non diagnostica. Sì. Prendere un cartoncino, due cartoncini neri, poco più larghi e lunghi del piede, e cospargersi la parte plantare di, sì, borotalco. Sì. Ok, metterci, appoggiarseli e osservare quello che poi, togliendo i piedi, rimane. Allora, in generale, ma è solo un gioco che propongo, sì, se si vedrà una bella mezzaluna, diciamo, ben definita, sì, corposa, possiamo parlare di un piede con un appoggio ideale. Sì. Se poi dovesse esserci questa mezzaluna che vada a sottigliarsi moltissimo nella parte esterna, ma veramente molto, si può parlare di un atteggiamento di un piede cavo, mentre al contrario, se ci fosse due bei ferretti da stiro, allora è una valutazione così solo di carattere a livello di propria curiosità. Certo, però ci può aiutare, perché magari poi, associato ad altre concause, sintomi vari, possiamo con l'aiuto degli esperti cercare di capire se si può migliorare la situazione. Anche perché spesso noi avvertiamo dei dolori ai piedi, ma a volte, nella maggioranza dei casi, il piede parla per interposta persona, e cioè quello che ha da dire ce lo manda a dire da altre parti del nostro corpo. Ad esempio è il ginocchio che può lamentarsi, oppure la schiena. Quindi ci sono dei segnali che partono da lontano. Certo, ecco perché la valutazione clinica va fatta sempre considerando il soggetto nella sua interezza, e quindi valutare il soggetto nella sua globalità e non soffermarsi solo alla valutazione clinica del piede. Perché poi a volte, per esempio, un piede cavo può causare, diciamo, un atteggiamento iperlordotico a livello cervicale, mentre il contrario nel momento in cui stiamo parlando, diciamo, di un piede piatto. Quindi la parte cervicale, la parte estrema e inferiore, quella dell'articolazione della caviglia, sono tra loro correlate in modo meccanico. E quando parliamo di piedi, parliamo anche, su suggerimento di molti ascoltatori, dei piedi dei bambini. Le mamme spesso si lamentano e si preoccupano di questi piedi piatti, o dei modi in cui i bambini camminano, certo, o sulla punta, o col piede un po' storto, con le punte girate verso l'interno. 800 24 00 24. Però bisogna ammetterlo, quando uno gioca col fuoco prima o poi si brucia. Che vuoi dire? Ma che non si va a fare un massaggio ai piedi alla nuova moglie di Marcellus Wallace? Secondo te non hai esagerato? Beh, Antoine probabilmente non si aspettava che lui reagisse come ha fatto, ma doveva pure aspettarsi una reazione. Ma era un massaggio ai piedi, non è niente. Io lo faccio sempre a mia madre. No, e mettere le mani in modo intimo sulla nuova moglie di Marcellus Wallace. Ma lo stesso fottuto campo da gioco. Oh. Tratto da 800 24 00 24. Ditemelo voi, questi oggi due quizzettoni. Il primo legato al cammino, perché fa dimagrire di più rispetto alla corsa. Il secondo legato a questa clip che abbiamo preso da un film molto famoso che riparla appunto del massaggio ai piedi. Il dottor Melegatti se la ridacchia perché lui la sa. Io vuole la dare so, delle io la indicazioni? So perché sono un fan di Tarantino e quindi... Eccolo qua. E quindi le indicazioni ci sono. Abbiamo aperto una brevissima parentesi sul modo in cui i nostri bambini piccoli che iniziano a camminare appoggiano i piedi. Ci sono bambini che camminano sulle punte, ad esempio. C'è certo. Da fare qualcosa? Allora no, c'è da osservarli e da, innanzitutto da non preoccuparsi, perché questi sono nella stragrande maggioranza dei casi degli atteggiamenti che il bimbo assume, che poi con l'età e con il normale sviluppo si autocorreggono, per cui non è il caso di essere apprensivi se il piede è troppo piatto oppure e quindi certo osservarli con assoluta tranquillità, attenzione e tranquillità. Attenzione e tranquillità. Professor Tirelli, ha delle indicazioni da dare per i bambini piccoli? Perché giocare con loro, gli esercizi che possiamo fare con loro, camminate un po' buffe e strane, aiutano comunque, rinforzano sì, e certo. Stimolano le fasce muscolari dei piccoli piedi. Sì, e poi soprattutto per... piedini. Sì, ma anche sui neonati e sui bambini proprio della primissima fase della vita, perché la stimolazione anche col massaggio della mamma e del papà sulle fasce plantari stimola quelli che sono i meccanismi propriocettivi, quindi aiuta già a risvegliare in modo molto più naturale quelli che sono i meccanismi che ci daranno poi nella vita la capacità di comprendere il nostro corpo nello spazio, di avere una percezione del nostro corpo ottimale laddove anche qua nel momento in cui abbiamo per esempio gli occhi chiusi. E allora questa cosa attraverso il gioco, attraverso qualsiasi tipo di attività ludica deve essere sempre sviluppata. I piedini per i bambini sono assolutamente da stimolare. Do il benvenuto alla dottoressa Bianca Maria Piraccini che è in linea con noi, dermatologa, ricercatore all'Università di Bologna. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Perché disturbare la dottoressa Piraccini? Perché da lei vogliamo sapere delle indicazioni e delle regole di prevenzione di un disturbo molto diffuso, soprattutto molto fastidioso, che colpisce ancora una volta in modo particolare gli sportivi maschi, ma che non risparmia naturalmente le ragazze, le giovani donne. Parliamo dell'unghia incarnita. A volte proprio sono i microtraumi a provocarla, ma a questo si abbina anche una pedicure non adeguata, non corretta. Dottoressa. È vero, spesso sono proprio i giovani maschi perché invece di tagliare in modo corretto le unghie le strappano o le unghie si spezzano. Fanno perché così. Magari hanno una ipersudorazione dei piedi. Sì, quindi non le tagliano ma le strappano tendenzialmente. E questo è molto tipico anche degli adolescenti, no? Che invece di prendere delle tronchesi e tagliare le unghie lasciando poi un angolo quadrato nelle unghie dei piedi, le strappano con le mani, oppure le unghie si spezzano perché quando c'è una sudorazione eccessiva dei piedi, altra caratteristica frequente nei giovani maschi, le unghie sono molto più fragili e si possono spezzare. Quindi come vanno tagliate? Mai arrotondarle? Ma vero? Sempre quadrate, in modo che lo spigolo distale dell'unghia rimanga un po' fuori. Mentre, e se l'angolo si incarna, dottoressa? Se l'angolo si incarna, cosa succede? Che abbiamo una sorta di sperone, un piccolo frammento di unghia che traumatizza continuamente le pieghe laterali. Questo tanto più quanto più ci si cammina, si corre, si portano scarpe strette e a lungo andare l'infiammazione determinata da questi traumi progredisce fino a una vera e propria unghia incarnita. Credo che le abbiate viste, sono unghie dove il piede è molto gonfio e arrossato, spesso ci sono dei granulomi piogenici, quindi delle lesioni anche un po' sanguinanti, con un notevole dolore e difficoltà di indossare le calzature. In questo caso però il trattamento non è come si faceva un tempo, togliere l'unghia, che deve essere qualcosa di dolorosissimo, ma ci sono dei trattamenti più meno invasivi, più soft, diciamo, che assolutamente aiutano l'unghia a ristabilizzarsi e soprattutto il letto ungueale a prepararsi per accogliere l'unghia sana. Sì, perché togliere l'unghia è una metodica ormai superata. Meno male, che dolore. Mi fa male, vero, e poi si arriccia, pensare ma... che... adesso non le fate più queste torture. No, se noi togliamo l'unghia, quando l'unghia cresce, tende ad incarnirsi di nuovo anteriormente, perché ricreiamo una situazione che non è fisiologica. Attenzione quindi a in che mani finite, perché il trattamento per l'unghia incarnita, dottoressa, come si chiama? Il trattamento dell'unghia incarnita grave si chiama intervento di fenolizzazione del corno laterale della matrice. Basta ricordarci fenolizzazione. Sì. E consiste... Alla fine noi andiamo solamente a stringere la radice dell'unghia facendo crescere un'unghia più stretta. Tutto lì, e l'unghia cresce più stretta ma più sana. Attenzione però, guardate anche le dita del vostro piede, perché le persone con un malallineamento congenito dell'alluce, vero? Sì. Rischiano di più. E se andiamo in età più adulta, le persone che hanno le unghie a pinza, quindi le unghie un po' troppo curve, che è una deformità che si acquisisce negli anni, e allora a volte l'unghia diventa un po' troppo convessa, per cui pinzetta e tessuti molli. Quindi questa è una ragione in più per prenderci cura dei nostri piedi. Molti disagi, molti fastidi possono essere prevenuti solo con un po' di attenzione, con un briciolo di cura. Dottoressa Piraccini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Abbiamo Fabrizio che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Grazie per avermi fatto intervenire e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io ho una figliuola di 15 anni che fa agonismo di sci. Complimenti. Gli scarponi molto stretti la costringono molto i piedi e quindi alla fine della giornata sono molto stressati. Volevo sapere cosa si poteva fare per aiutarla. E ovviamente gli allenamenti sono giornalieri e quindi questo stress è continuo, e cercare un qualcosa per magari dopo l'allenamento, professor Tirelli, perché gli scarponi sono quelli, sì, e su quello penso che ci sia poco margine d'azione. Infatti, io suggerirei sempre un discorso dopo l'allenamento con massaggio, automassaggio, ma anche istintivo. Ci sono due punti importanti rispetto a quelli famosi magici di cui parliamo ogni tanto. Sì. Si chiama punto 3 del rene, punto 60 della vescica urinaria. Sono proprio posti nella zona laterale e mediale, quindi all'esterno e all'interno, rispetto al tendine nel suo punto di inserzione al calcagno. Cioè, quindi dove noi tendine... prendiamo questo cordoncino che abbiamo dietro. Scendiamo fino, sì, a dove sentiamo l'osso, sì, il calcagno. Qua. Ecco, in quel punto troveremo sia all'esterno che all'interno due punti importantissimi che scaricano le infiammazioni del tendine. Sono il 3 che è a livello mediale, il 3 del rene e il 60. Li stimoliamo con un automassaggio istintivo, non voglio dire come, quando, perché comunque funziona da sé. Per cui un automassaggio, sì, prendere il tendine tra le due dita nella parte finale, quella, sì, verso il pavimento, insomma. Sì, questo aiuta sia nel caso di infiammazione, ma anche nel caso di contratture eccessive del gastrocnemio, dei gemelli o polpacci, che dir si voglia. Allora, noi dalla regia abbiamo, mi segnalano che Luigi da Lecce è pronto per darci una risposta, perché camminare fa perdere più peso rispetto alla corsa. Luigi, buongiorno. Salve, buongiorno. Si perde più facilmente peso perché si stimola il metabolismo dei grassi, dei lipidi, quando si cammina. Invece, quando si corre, si stimola il metabolismo degli zuccheri. Questo è quello, corretto, che io ricordo. Bravo Luigi. Bene, complimenti per la trasmissione, fate almeno informazione corretta che serve a tutti noi. Grazie Luigi, lei riceverà a casa Guida al Benessere, un libro per continuare a stare bene. Grazie per essere intervenuto. Abbiamo anche il nostro amico Stefano Polato che è in linea con noi. La promessa era per tutta questa settimana, per iniziare bene, una ricettina con un basso quantità di sale. Stefano, siamo quasi in chiusura. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao Stefano, grazie per essere con noi. Dacci solamente il titolo, che noi, allora, la ricetta poi possiamo trovarla sulla pagina di Essere Benessere. È un Caciucco alla Livornese un po' rivisitato con prodotti pesce di stagione, dove andiamo ad utilizzare la sapidità naturale del pesce, in particolar modo di cozze e vongole, per insaporire il nostro piatto. In più aggiungeremo del peperoncino, della salvia e dell'aneto. Questo per sostituire, o il meglio, sale, per diminuire la quantità di sale nei nostri piatti. La ricetta del caciucco rivisitato di Stefano Polato, che è il piatto che vi suggeriamo oggi nella nostra così percorso di riduzione del sale, lo trovate naturalmente sulla pagina di Essere Benessere. Nicola da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Qual era il film che parlava del messaggio del piede? Me lo ridica? Pulp Fiction. Perfetto, bravo Nicola. Grazie. Era più difficile l'altra domanda, comunque, onestamente. Era più difficile, è vero. Mi dicono che devo salutarla, Nicola. Buona giornata a chi ci ha seguito, ai nostri esperti. Auguri. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Radio 24. La passione si sente.